Ora, mostri si esponga alle fauci demute di quel mostro vorace, che empie di folte stragi i campi intorno. E tu sui liri nostri rimandi a spietata, mostro di crudeltà, cibo de morti. Perfido! Yeah.